Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Eccoci insieme per una nuova puntata e oggi ritorniamo sul tema della casa sicura. Quante volte ci capita di non prestare la dovuta attenzione alla qualità o alla manutenzione dell'impianto elettrico della nostra abitazione o alle tubature dell'acqua, specie se l'immobile non viene ristrutturato da tempo? Il tema si pone in modo abbastanza naturale se siamo in procinto di acquistare casa e magari siamo più portati a dare un'occhiata allo stato degli impianti, così magari anche per contrattare sul prezzo, da quello elettrico a quello del gas. Avere tutti gli impianti a norma è un obbligo di legge, perché l'acquisto di una casa di nuova costruzione in particolare deve essere accompagnato dalle certificazioni di conformità degli impianti, che sono indispensabili per il rilascio dell'agibilità dell'immobile. E la questione è un po' più complicata ovviamente per gli immobili che invece sono un po' più datati, che sono un po' più vecchi. Oggi però, a parte insomma l'età della nostra abitazione, oggi vorremmo parlare di tutte quelle azioni e quei controlli che dobbiamo fare ed eseguire per avere la certezza di un'abitazione sicura. Fili elettrici, la caldaia, le condutture del gas, le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa mattina allora a vostra disposizione alcuni tecnici per tutte le tematiche attinenti la sicurezza della nostra abitazione. Francesco Rotta, presidente di Confartigianato Elettricisti. Rotta, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie di essere con noi a Salva Danaio. Tra un po' ci collegheremo anche con Franco Bianchi, presidente nazionale CNA Installazione Impianti. Ovviamente microfoni aperti ai nostri ascoltatori, scusate come al solito per la gola, sono proprio un po' in difficoltà da qualche giorno. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione, oppure avete a disposizione il 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. La borsa questa mattina è piuttosto negativa, siamo reduci però da una settimana invece che ha avuto un andamento letteralmente contrario, per cui le prese di beneficio sono inevitabili e sono anche abbastanza insistenti. Ieri il mercato internazionale è stato privato di due bussole molto importanti, Wall Street e Londra, chiuse per festività, per il Memorial Day, pertanto c'è stata una chiusura insomma poco mossa per gli indici del vecchio continente, quelli che almeno erano regolarmente aperti. Oggi invece la riapertura di Londra e nel pomeriggio di Wall Street, il quadro è negativo. Abbiamo un ribasso adesso di Parigi e Francoforte di 1,5 punti. Londra perde lo 0,8%, Milano perde l'1,40%. In rimonta il dollaro sull'euro, rapporto di cambio dopo aver toccato e superato 1,40 tra venerdì scorso e lunedì e ieri, oggi dicevo appunto in rimonta il biglietto verde a 1,3895 sulla moneta unica europea. A Piazza Affari abbiamo pochi titoli positivi, solo 3, Atlantia più 1,73%, Finmeccanica più 0,60% e Fiat più 0,58%. Oggi, come dicevamo nel giornale radio, l'atteso incontro fra Sergio Marchion, l'amministratore del Lingotto, e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Domani il governo tedesco dovrebbe alzare il velo sulla sua decisione a proposito del futuro di Opel, ma insomma ne abbiamo anche parlato nel corso degli ultimi giornali radio. In realtà il governo tedesco non ha apprezzato particolarmente nessuna delle offerte arrivate, quindi a questo punto si attende di capire anche se i tre concorrenti in lizza saranno disposti a migliorare ulteriormente le proprie offerte. Tra i titoli che perdono meno, quelli difensivi, Eni meno 0,18, Snam Rete Gas meno 0,33, CIR meno 0,62, UbiBanca meno 0,52%. In realtà tutte le altre banche sono invece in fondo alla classifica. Oggi il settore bancario ed assicurativo perde parecchio terreno, anche se in realtà navigare nelle acque peggiori è il settore editoriale, perché Mondadori perde il 3,68%, quindi è il peggior titolo di questa seduta in questo momento. La Popolare di Milano perde il 3,36, Prismian meno 3,12%, Fondiaria e Monte dei Paschi meno 3, Mediobanca meno 2,5, Intesa San Paolo meno 2,42%. Questi sono i titoli che registrano i movimenti più vistosi in questo momento. Un'occhiata anche alle aste del Tesoro che sono state organizzate questa mattina. Abbiamo un nuovo minimo storico per il rendimento del BOT a 6 mesi all'1,023%, mentre in leggera risalita di pochissimo il rendimento lordo del BOT a 3 mesi allo 0,9320%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Oggi si riparla di casa sicura. Casa, dolce casa. bella o brutta, grande o piccola, è il luogo per eccellenza dove più ci sentiamo al riparo. È qui che gettiamo le difese e ci concediamo il dovuto relax dopo una giornata di lavoro, abbandonando ogni preoccupazione e chiudendo il mondo esterno fuori dalla porta. Eppure, anche in casa nostra, corriamo alcuni rischi, in particolare legati alla sicurezza degli impianti. Tubature, conduttore del gas, impianto elettrico e di condizionamento, caldaie, ma anche antenne e antifurti, andrebbero tenuti sotto osservazione e controllati periodicamente per tenere alta la sicurezza ed evitare problemi. Per fare un esempio, numerosi incendi sono provocati da cortocircuiti, all'origine dei quali spesso c'è un surriscaldamento dei morsetti e dei fili di una presa anche nuova, ma collegata a più elettrodomestici di potenza elevata. Ma come si esegue una corretta manutenzione? Se la casa è nuova, si possono eseguire controlli periodici sulla base dei consigli d'uso del costruttore. Anche l'impianto eseguito a regola d'arte, infatti, ha bisogno di controlli circa ogni 10 anni. Se invece si acquista o si affitta una casa di vecchia costruzione, alla stipula del contratto si dovrebbe richiedere una copia della dichiarazione di conformità, se sono stati eseguiti lavori sugli impianti. La recente normativa in materia di sicurezza domestica prevede infatti che l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti debbano essere affidati a persone abilitate e che per interventi importanti sia rilasciata un'apposita dichiarazione di conformità. È bene, in ogni caso, provvedere ad una buona progettazione di base degli impianti. Infatti, installare un impianto domestico costa mediamente il doppio se i lavori vengono eseguiti quando la casa è stata già costruita o ristrutturata. Ho già salutato Francesco Rotta, presidente di Confartigianato Elettricisti. Saluto adesso Franco Bianchi, presidente nazionale CNA Installazione e Impianti. Bianchi, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei. Grazie di essere intervenuto a Salvadanaio. Allora, tra l'altro, questo tema parzialmente lo avevamo toccato anche a Soldi e Dintorni, nell'altra trasmissione, la nostra finestra economica delle 8:15 del mattino, raccontando di questa recente indagine di Demoscopea condotta per conto di Prosiel, che è l'Associazione Italiana per la promozione della sicurezza elettrica, sulla sicurezza delle case italiane, indagine secondo la quale nelle abitazioni anteriori agli anni 90, al 1990, 2 impianti elettrici su 3 in Italia non sono in regola, e il punto è che gli italiani sono convinti invece di avere in casa prese, fili e conduttori appunto perfetti. Insomma, è una situazione che provoca ogni anno 45.000 incidenti, anche mortali, a causa appunto di impianti elettrici non sicuri. E sempre questa indagine calcola che sono ben 12 milioni gli impianti non in regola con la normativa appunto che regola il comparto dell'impiantistica negli edifici. Una situazione molto complessa. Stamattina, per orientarci in questa materia, anche per capire quanto dobbiamo spendere qualora ci dovessimo così imbarcare nel lavoro di sistemazione dell'impianto elettrico della nostra abitazione piuttosto che dell'impianto del gas. E allora, Francesco Rotta, cominciamo da lei di Confartigianato, perché peraltro sul tema della sicurezza domestica voi avete avviato proprio qualche mese fa una campagna con una importante azienda del settore proprio per garantire impianti elettrici sicuri a prezzi certi, che mi sembra un passaggio di fondamentale importanza, Rotta. Sì, in effetti noi da diverso tempo abbiamo iniziato questa campagna di sicurezza nelle abitazioni e non solo. Abbiamo trovato un partner affidabile che è un'azienda totalmente italiana, e dopo aver valutato attentamente la loro proposta economica, che avviene attraverso una guida prezzi, l'abbiamo adottata ed è il punto di riferimento per tutti gli installatori di Confartigianato su tutto il territorio italiano. Cioè, in sostanza, quali sono le informazioni pratiche che per esempio troviamo anche in questa guida prezzi per l'impianto elettrico in opera? Quali sono i costi standardizzati per determinati tipi di lavoro? Quindi abbiamo chiaramente uno standard, una base da cui partire, immagino. Sì, la base esiste ed è anche composita, nel senso che si può scendere nel dettaglio e si può invece parlare di gruppi di interventi. Una cosa importante è che la guida prezzi naturalmente è di emissione della casa costruttrice, che si chiama Gevis alla fine, ma è comunque facilmente adottabile da qualsiasi componentistica, inteso come materiale, interruttore, presa, di qualsiasi altra casa costruttrice. Quindi esiste una base ben solida di riferimento, certo, per cui non è obbligatorio l'uso di materiale Gevis, ma il materiale certo, di altre case costruttrici messo in opera equivale a ai prezzi che sono esposti. Il tema era un po' sollevare l'attenzione intorno a questo argomento, perché molto spesso magari qualche utente, pur essendo nella piena consapevolezza che l'impianto elettrico della propria abitazione non è nelle condizioni ottimali, magari qualche volta un po' di così resistenza prima di farsi fare un controllo e di avviare i lavori, perché magari teme che i lavori di risistemazione e adeguamento, anche secondo le normative vigenti, sia dal punto di vista economico un lavoro molto impegnativo. Franco Bianchi, presidente nazionale CNA installazione e impianti, la risaluto di nuovo, e però il tema della sicurezza dell'abitazione credo che sia assolutamente prioritario. Anche da parte di CNA ci sono state iniziative in questi anni per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica intorno a queste tematiche. Abbiamo fatto più volte convegni in giro per l'Italia, partecipiamo anche noi a Prosir come associazione, e la sensibilizzazione degli utenti è importante. Diciamo che per quanto attiene i prezzi degli impianti, è vero, esiste questa guida a cui faceva riferimento l'amico Rotta, esistono anche a livello provinciale i prezzi di orientamento che danno le camere di commercio. Sono prezzi ovviamente che si rifanno a degli standard di impianti e a delle condizioni specifiche di impianto. Il consiglio che diamo noi è quello di chiedere sempre un preventivo all'impresa che viene a fare l'impianto. Beh certo, magari perché farsi... In fase di ristrutturazione o di manutenzione parziale di un impianto è difficile standardizzare dei prezzi, perché le condizioni che si trovano sono oggettivamente diverse. Questo senz'altro. Senta, ma a prescindere dal costo, che è un territorio che continueremo ad esplorare nel corso di Salvadanaio, secondo lei, dando un suggerimento di massima ai nostri ascoltatori, a patto di avere insomma un impianto a norma e in ogni caso una regolare manutenzione dell'impianto elettrico, ogni quanto è bene farlo? Ci sono, come dire, anche dei riferimenti temporali? È chiaro che dipende dallo stato dell'abitazione, da quanti anni questa ha, perché un'abitazione nuova è evidente che avrà un trattamento diverso rispetto ad una con qualche anno invece sulle spalle. Però ogni quanto è bene controllare un impianto elettrico, Bianchi? Guardi, ai fini della sicurezza, il differenziale che è meglio conosciuto come salvavita, che dovrebbe essere in tutti gli impianti, è opportuno che venga controllato anche dall'utente stesso col pulsante di prova almeno una volta l'anno. Le case costruttrici suggeriscono ogni 6 mesi. Questo non ci controlla l'impianto, però ci controlla lo strumento che dà sicurezza all'impianto, diciamo, lo strumento principale che dà sicurezza all'impianto. E una manutenzione così di base, per esempio, quanto ci deve costare, dottor? Ma io penso che questo intervento qui non c'è, come ho detto, non c'è bisogno che intervenga l'impresa specializzata. C'è un pulsantino da spingere sull'interruttore. Nelle istruzioni per la manutenzione dell'impianto, l'azienda che ha costruito l'impianto dà queste informazioni all'utente, ed è un pulsantino che lei spinge e vede che l'interruttore deve aprirsi, cioè deve interrompere il circuito. Se così va, vuol dire che l'interruttore funziona ai fini della sicurezza, cioè il differenziale interviene in caso in cui vi sia una dispersione di corrente nel circuito, e sono le dispersioni di corrente quelle che poi mettono in difficoltà chi opera in casa, no? Quando sentiamo eventualmente corrente toccando un elettrodomestico e il tubo dell'acqua. I problemi che si vengono a creare in questo caso sono due: intanto che l'elettrodomestico non è messo a terra in modo corretto, e poi che in quello elettrodomestico specifico c'è una dispersione di corrente. Se questa supera i valori di taratura dell'interruttore di protezione che chiamo salvavita per facilitare, ma che in realtà si chiama interruttore differenziale, se supera questi valori, il differenziale deve intervenire, cioè interrompere, togliere corrente a quella parte o tutto l'impianto, a seconda di come è stato montato. Certo, però Bianchi, le dico molto onestamente, io non mi avventurerei mai nel fare un lavoro di questo tipo, perché ho anche un po' di paura di tutto ciò che è materiale elettrico. Questa magari è anche una mia fobia. Qualora volessi invece interpellare un esperto per farmi questo controllo così banale, secondo lei quanto è ragionevole che paghi per questa consulenza minima? Il problema non è del controllo banale, il problema è che se lei fa muovere un operaio da un'impresa e deve venire a casa sua a fare questa prova che ci impiega 3 minuti di orologio, e ci impiega più venire su con l'ascensore che fare il controllo, lei capisce che, che mi devo attrezzare un'ora io, di lavoro questa persona la perde tra venire dall'azienda lì da lei, mm-hmm, fare questa prova e poi tornare indietro. E insomma, allora magari già che sono lì gli metto insieme due o tre lavoretti, così almeno giustifico. Se insieme qualche cosina lo giustifica meglio. Se noi volessimo pensare all'intervento di un tecnico, uno specialista sull'impianto elettrico, magari lo potremmo fare con una certa frequenza. Potremmo prendere ad esempio il DPR 462, che è quello sulle verifiche degli impianti di terra negli ambienti di lavoro, che vengono fatte ogni 5 anni. Non sarebbe male ogni 5 anni chiedere a un tecnico che venga a fare una verifica del nostro impianto, che fa la verifica intanto dell'impianto di terra e, dell'equipotenzialità dello stesso. E fa la verifica del differenziale, verifica i morsetti, la temperatura dei morsetti delle prese, come inizialmente diceva la presentazione, e quelle degli interruttori, in particolare quelli di protezione. È un intervento dove un tecnico potrà perdere un'ora e mezzo, quindi tra i tempi per venire lì e fare queste verifiche io penso che sia ragionevole ragionare i 35-40 euro. Benissimo. Con l'intervento. Va bene, comunque tanto per saperlo, magari c'è chi davvero non ha nessuna intenzione di toccare nessun filo, proprio perché, come per esempio capita a me, magari per questioni insomma di sicurezza personale, di qualche pregiudizio personale, qualche pudore personale, e in ogni caso insomma questo è il prezzo intorno al quale ci possiamo orientare. Allora, volevo cominciare già a girarvi alcune domande dei nostri ascoltatori, sia a Francesco Rotta di Confartigianato che a Franco Bianchi della CNA. Giacomo da Roma, buongiorno, interpello lei per primo perché è un aspetto che mi interessa molto, quello che lei vorrebbe sollecitare. Buongiorno. Sì, buongiorno. Deborah, io non ho pregiudizi come lei nei confronti dell'elettricità. Un po' di paura, mi dà un po' fastidio toccare il filo elettrico. Credo. Io non li tocco proprio. Ecco, però da una parte c'è l'elettricità e quindi questa diffidenza che lei conosce bene, dall'altra parte c'è l'acqua, perché poi c'è un altro problema, dove ci sono le infiltrazioni, i condomini che protestano e via discorrendo. Quindi che cosa faccio adesso? Quando esco di casa tolgo l'interruttore, spengo l'interruttore della luce, chiudo la chiave d'arresto dell'acqua. Quando Ma lei Giacomo, tutte le volte che esce, anche se esce per un'ora per fare la spesa oppure quando si allontana per lunghi adesso periodi? Adesso guardi, alla luce di tutta l'esperienza negativa che ho acquisito, anche se vado a fare la spesa faccio questa operazione. Faccio bene, faccio male, ci sono delle controindicazioni? Ah beh certo, perché anche lì poi bisogna vedere se tutta questa attività di accensione, di spegnimento nel giro di un arco di tempo insomma molto ristretto, se comporta anche una grave dei costi, perché poi anche questo è interessante da esplorare. Francesco Rotta, Confartigianato. E allora, questa abitudine di Giacomo da Roma è un'abitudine a cui guardare come modello oppure è un po', come dire, è un po' esagerato? Ecco, sinceramente l'ha già detta lei la definizione. Signor Giacomo indubbiamente ha un così timori che vanno oltre il dovuto e oltre il necessario. No, anche perché quello che penso io adesso, a prescindere diciamo dall'incidente che può capitare, l'infiltrazione dell'acqua non è che si verifica solo quando noi ci allontaniamo da casa, esatto. Si può subdolamente verificare anche quando stiamo in casa tranquillamente, magari anche per lunghi periodi senza mai allontanarci dall'abitazione, e le tubature possono comportarsi in maniera diversa, sì, da quello che è possibile osservare. A me sembra eccessivo l'intervento e tutte le operazioni che il signor Giacomo fa, sinceramente. Tenga comunque presente che ormai l'elettronica e tutto quello che si può definire come tale mette a disposizione anche degli apparecchi che possono rilevare con facilità eventuali perdite d'acqua e allegamento anche di semplice portata. Gli stessi elettrodomestici, per intenderci le lavatrici e quant'altro, sono già dotati di questo meccanismo, ma questi meccanismi si possono anche spostare dall'interno, non fisicamente togliere, intendiamoci, ma ci sono apparecchi in commercio che sono a disposizione proprio per prevenire questo. Ah, quindi addirittura diciamo, insomma, si può installare queste possibilità. Dove vanno installate queste macchinette che ci permettono di intercettare una infiltrazione? Di livello praticamente molto sensibile, che si possono mettere nelle sale da bagno. Da bagno, e come fanno praticamente? Rilevano un improvviso aumento di umidità? Non so qual è il. Soprattutto di livello dall'acqua, quindi il livello dell'acqua e la posizione del rilevatore lo stabilisce l'installatore, ma con facilità si può fare. Questo poi chiude l'entroalvola d'ingresso e quindi praticamente non arriva più liquido, in questo caso l'acqua, il problema viene risolto. Tenga presente che in tante abitazioni dove ci sono disabili o persone anziane, ok, questo è un metodo già adottato, quindi chi desidera andare... Il tema, insomma, sì, torniamo all'inizio della trasmissione, il tema è anche, insomma, l'abitazione che ha invece un po' di anni di età. Eccoci ritrovati a Salvadanaio e stavamo intanto ho ricevuto una bella lavata di capo dalla mia collaboratrice, da Valeria Coffaro, che mi ha spiegato esattamente come funziona con il tester per fare la verifica del nostro impianto elettrico senza necessariamente chiamare un tecnico che ci faccia appunto la prova del salvavita, del differenziale. E vabbè, insomma, lì non avevo mai controllato, ma anche la conduttrice di Salvadanaio non è perfetta, tutt'altro, insomma, ha un sacco di difetti, pur facendo questa trasmissione da anni. Detto questo, eravamo anche rimasti e ci eravamo anche un po' divertiti sul caso di Giacomo da Roma, in maniera molto affettuosa, naturalmente, Giacomo, non se la prenda, sulle sue abitudini di chiudere in continuazione tutta l'impiantistica della sua casa quando esce, quindi chiude l'erogazione del gas piuttosto che dell'acqua, questo per evitare eventuali disguidi ed infiltrazioni tra condomini, però insomma questo non è detto che poi gli incidenti non possano capitare. Tra l'altro, Francesco Rotta, ero ancora con lei sul caso di Giacomo da Roma, c'è un ascoltatore che giustamente osserva, ma se togli in continuazione la corrente come fa il frigorifero? Non è un problema per il frigorifero continuare a togliere e riaccendere l'alimentazione? In effetti è vero quello che sta suggerendo un altro ascoltatore, perché era fuori servizio, alla fine compromette tutta la funzionalità dell'impianto, che può essere dalle cose più banali come il frigorifero, oppure l'allarme o quant'altro c'è di automatico in una casa. Però insomma lui preferisce stare più sicuro così. Non è affatto consigliabile. Il suggerimento, riprendendo il discorso di prima, sarebbe proprio quello di affidare agli esperti del settore la verifica degli impianti di qualsiasi estrazione si siano, elettrico, gas e acqua, in modo che ci sia una certa sicurezza che può garantire che tutte queste cose possono funzionare tranquillamente senza aprire e chiudere rubinetti, alzare, abbassare interruttori e quant'altro. Senta, invece io per esempio una cosa che le volevo chiedere io, però per esempio io non interrompo l'erogazione dell'energia, ad esempio anche se mi allontano per lunghi periodi, quando sono in ferie mi allontano per 2 o 3 settimane, per lunghi periodi invece secondo lei è sempre consigliabile farlo? Sbrinare il freezer piuttosto che chiudere l'erogazione del gas? Magari per Io mi riallaccio ancora a quello che la tecnologia mette ormai a disposizione, ma ci sono degli interruttori che si chiamano restart che intervengono se ci sono veramente delle anomalie. Mi spiego meglio, per esempio estate uno va in vacanza, lascia l'impianto normale funzionante, sempre che l'impianto sia comunque stato revisionato ed è in grado di essere lasciato in quelle condizioni, anche se ci sono scarichi atmosferici, abbassamenti di tensione e quant'altro, questo interruttore, anche se scatta, è in grado di fare in tempi successivi un'analisi dell'impianto e rimette corrente qualora l'impianto risulta idoneo. Quindi, come vede, la tecnologia c'è, esiste, basta solo conoscerla. Conoscerla, infatti. Luciana da Roma, benvenuta. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, i nostri tecnici di questa mattina. Insomma, mettiamo un po' la casa a posto, almeno dal punto di vista dell'impiantistica fondamentale. Luciana, benvenuta. Grazie, anche a voi. Mi sentite? La sentiamo benissimo. Perfetto. Io abito in Piazza Bologna, è una zona di Roma abbastanza centrale, e ho un edificio del 1950, come ha detto lei. Sì. Che cosa succede? Succede che tutti i tubi del gas arrivano in una chiostrina, chiamiamo così noi, e si fermano ai contatori. Dai contatori partono i tubi e vanno direttamente attraverso i muri centrali nelle cucine di ogni appartamento. Sì. Ora, io vivo col terrore, perché a me non basta, perché io abito al secondo piano e nella casa mia oltre non passa soltanto quello del primo piano, perché poi fino al quinto piano tutti i tubi con il gas passano attraverso il mio muro. Insomma, una, come dire, architettura che per gli anni 50 poteva andar bene, lei anche dice emotivamente adesso io non la ritengo più adeguata. Sentiamo se sono d'accordo i nostri consulenti, Luciana, e qualora fossero fondati i suoi timori, che cosa può fare anche per tutelarsi di più, sgombrare anche il campo da tutte queste paure. Franco Bianchi, CNA. Ma i tubi del gas, adesso io non ho ben capito se la signora il contatore piano terreno ce l'ha in casa. Glielo chiediamo subito, Bianchi. Luciana. Il contatore è giù nella chiostrina dove arrivano tutti i tubi del palazzo. Sì. Quindi il tratto di tubo che dal contatore viene in casa sua è di pertinenza sua, perché è di proprietà sua, sì, però dall'utenza e viene sua a casa sua. Quindi eventualmente Luciana, anche abitando in un condominio, potrebbe fare una costruzione diversa, cioè far arrivare i tubi a casa sua in maniera alternativa? I tubi che trasportano il gas, che vengono murati, cioè messi sotto traccia, devono avere determinate caratteristiche, devono avere determinate protezioni, e cioè una guaina dentro la quale corrono questi tubi, in modo che danno maggiori garanzie, insomma, che non ci sono. E poi non devono avere saldature interne, se hanno momenti di disgiunzione tra di loro deve essere ispezionabile, deve essere aperto e ispezionabile. Soprattutto, oltre a queste cose, ci deve essere un rubinetto di intercettazione alla base della partenza, e poi le altre rubinetti di intercettazione che sono previste in prossimità delle utenze che ha all'interno dell'appartamento. E quindi, Luciana, mi chiedo, lei abita in un condominio? Sì. Ecco, si è mai posta, ha mai posto l'attenzione di tutto il condominio questo problema? L'ha mai sollecitato? Certo, e che cosa dicono? Ma bisognerebbe fare lavori, bisognerebbe essere tutti d'accordo che si fa i lavori. Secondo me, però io sono un incompetente, la cosa migliore sarebbe che il gas direttamente passasse fuori sui terrazzi che abbiamo tutti. E poi potrebbe fare Bianchi questo lavoro in maniera indipendente, Luciana, dal resto del condominio? Certo, non è una questione tecnica. Infatti, è una questione più tecnicamente, però si potrebbe fare. No, ma a parte questo. Sì, secondo me la signora potrebbe chiedere una visione dell'impianto, una verifica dell'impianto, degli impianti a gas all'interno del condominio, a un tecnico e valutare eventuali rischi o pericoli che vi sono in questo impianto. Una casa del 1950, mi diceva la signora, ha più o meno la mia età, credo che una verifica non faccia assolutamente male, anche perché vado un po' a memoria, mi pare che allora si usassero dei tubi di ferro, quindi voglio dire, se sono murati all'interno dei muri potrebbero avere subito anche... Esatto, no, d'altronde quasi tutto il nostro patrimonio edilizio, il nostro paese a questa età, perché non è un paese che vive integralmente in abitazioni nuove, quello italiano, pertanto è chiaro che è un problema che riguarda Roma, come riguarda la gran parte delle città del nostro paese. Sentirei Claudio da Pisa invece adesso. Claudio, benvenuto. Quindi, insomma, il suggerimento a Luciana è di riporre ancora con un po' più di forza la questione all'amministratore di condominio e al resto dei condomini, magari farsi promotrice di un'assemblea in cui si valuti il problema, eventualmente fare anche così una chiacchierata con un paio di tecnici, ovviamente quindi un paio di preventivi, per verificare se è possibile fare il distacco dal resto del palazzo. Claudio, eccoci. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ho un problema di questo tipo. Io ho comprato casa all'incirca 2 anni fa e da 2 anni a questa parte non riesco ad avere una documentazione completa riguardante gli impianti. Che cosa le manca? Tutto. Nel senso che io ho una documentazione molto parziale. Mi viene detto che l'impianto elettrico è a norma, ma per esempio non ho una piantina di dove passino i tubi, i collegati elettrici. L'unico dato che ho certo è quello dell'impianto del gas, perché me lo sono andato a prendere da solo dalla ditta che ha fatto l'impianto certo, del gas. Certo, quindi diciamo il tema, Claudio, è che il costruttore non ha fatto quello che doveva fare e lei si sta muovendo in autonomia. Esatto, vengo valleggiato tra costruttore, geometra e in realtà costruttore reale, perché poi chi ha costruito la casa non è il costruttore che me l'ha venduta, ma l'ha subappaltata, chiaramente. Quindi figuriamoci, si sarà dispersa questa documentazione. Detto questo, però, insomma, è una casa anche acquistata da 2 anni, non è una nuova di 5 o 10. Quindi... No, è 2 anni fa, ecco, quindi... Infatti, cosa posso fare per avere questa documentazione? Infatti, Claudio, bella domanda. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, la sicurezza della nostra abitazione, impianto elettrico a norma, l'impianto del gas a norma, ogni quanto dobbiamo fare eseguire, a patto che vada tutto bene, poi magari insomma qualche problema ce lo ritroviamo anche nella normale amministrazione dell'abitazione sempre, ma a patto che sia tutto a posto, comunque una manutenzione ordinaria ogni quanto è necessaria. quanto ci costano i lavori anche di adeguamento se abitiamo in una casa vecchia alle norme vigenti, ma soprattutto l'abitazione nuova. Questo è il problema che ci ha posto Claudio, un ascoltatore di Pisa, che dice ha comprato appunto un'abitazione da appena 2 anni, ma il costruttore che poi ha subappaltato non ha rilasciato alcun documento relativamente allo stato appunto degli impianti. Qua con la voce sempre più in difficoltà. Comunque, Francesco Rotta di Confartigianato, allora, che diritti può far valere Claudio, insomma? Allora, i diritti del signor Claudio sono semplici: lui ha diritto veramente alla dichiarazione di conformità, perché la legge in vigore 2 anni fa era la 4690, ora superata dalla 37, quindi la 46 è decaduta, per cui si diceva che l'installatore deve rilasciare dichiarazione conforme. Anche perché se questa documentazione non c'è, mi sembra che sia anche a rischio l'agibilità dell'immobile. Per cui teoricamente il costruttore dovrebbe... Sicuramente, perché per rilasciare l'agibilità necessita la dichiarazione di conformità. Quindi l'installatore deve consegnare la dichiarazione di conformità presso la Camera di Commercio, riferita a quella data, con la 37 va consegnata presso lo sportello unico. Doveva essere consegnata quindi 2 anni fa presso la Camera di Commercio, l'installatore deve tenere la copia per sé e deve dare anche la copia alla committenza. Quindi le procedure sono queste secondo la legge. Ecco, perché anche perché tra l'altro se l'ascoltatore... Se seguito, sinceramente mi riesce difficile da comprendere. No, infatti io direi anche un attimo prima dei vari rogiti e delle varie stipule di contratti anche preliminari per l'acquisto di un'abitazione nuova, cerchiamo di sgombrare subito il campo da questo equivoco, che non ci dicano te la diamo dopo, te la rilasciamo fra qualche tempo, ancora non è pronta. Cerchiamo di fare in modo che tutto venga regolarizzato secondo i tempi previsti dalla legge, anche perché poi stavo pensando all'ascoltatore sempre di Pisa, adesso sta facendo tutto da solo, perde un sacco di tempo, probabilmente anche un sacco di denaro, Rotta, e queste sono tutte spese che non avrebbe mai dovuto effettuare. Sicuramente non sono spese che sono a suo carico. È un diritto avere la dichiarazione di conformità, che non ha nessun costo. Infatti. È intrinseca all'esecuzione dell'impianto, quindi praticamente lui acquista l'appartamento, ha diritto alla dichiarazione di conformità del suo appartamento. Insomma, poi magari allora questo ci presta il fianco anche così ad un suggerimento che ci viene di trattare di nuovo anche il tema dell'acquisto della casa in costruzione, parti fallimenti immobiliari magari di tanti costruttori, sono altri problemi, ma ammettendo anche che vada tutto regolarmente, invece c'è tutto un altro ramo di problematiche come quelle sollevate appunto da Claudio, quindi la certificazione di conformità dell'impianto che ci deve essere assolutamente rilasciato. Aldo da Caserta, sì, certo. Quindi la deve pretendere assolutamente attraverso... E il problema è che adesso lui non ce la sta facendo, perché anche a 2 anni di tempo deve anche recuperare tutte le figure con le quali aveva trattato 2 anni fa, non ritrovandole. Adesso Claudio sta facendo tutto da solo, però esige, ma senza essere accontentato, quindi... Rotta, o li denuncia, non so che cosa possa altro fare Claudio, ma vale la pena questa soluzione, ma difficilmente ci si arriva. Infatti gli conviene davvero chiamare qualche tecnico, rifare tutta la certificazione, almeno quella parte che gli manca, secondo me alla fine chiude. Con le certificazioni, perché un altro tecnico non può fare la dichiarazione di conformità, bisogna sgombrare il campo. Ecco, allora ci precisi un po'. È solo chi esegue materialmente l'impianto che può rilasciare la dichiarazione di conformità. Quindi bisogna starci attento, però... E quindi allora Claudio deve assolutamente rintracciare queste figure? Per forza di cose, altrimenti bisogna fare due valutazioni. Allora, o il signor Claudio, mi sembra, sì, vuol vivere in sicurezza e quindi la deve pretendere, oppure neanche necessità qualora dovesse cambiare casa, e quindi è un requisito che anche lui deve cedere. Certo. Quindi a fronte di tutto questo lui deve pretendere la dichiarazione di conformità e può rilasciarla solo l'esecutore materiale, quindi l'installatore che l'ha fatto. Qualora l'installatore non esista più per tantissimi motivi, ha un altro mezzo, che è la dichiarazione di rispondenza, DIRI, che può essere fatta sugli impianti eseguiti dopo la legge 90, quindi dal 90 fino a marzo dell'anno scorso. Quindi ce l'ha Claudio un'alternativa se non riesce... È un'alternativa che copre questi anni, dal 90 al 2008. Può fare la dichiarazione di rispondenza la può fare un installatore se rientra nei limiti di progettazione, altrimenti chi è abilitato oltre i limiti di progettazione. Però, mamma mia, anche questi costruttori, santo cielo, sanno che c'è una normativa, possibile che non riescano a comportarsi regolarmente, non dico tutti, ovviamente massimo rispetto per il settore, però... e controlli, vabbè, anche perché la ecco, Camera infatti, di il problema è sempre quello. Dei conti raccoglie un documento, lo archivia, non ha nessun'altro potere di verifica. Infatti, no, ma infatti il problema del nostro paese è sempre quello, Rotta, che magari per una bolletta pagata in ritardo il fisco o un'azienda che eroga l'elettricità ci inseguono per mesi, ci denunciano finché non la scampano. Qua invece in un settore così importante non c'è un sistema di controllo serio, non c'è un sistema sanzionatorio, perché poi anche se fossero ben sanzionati i costruttori che non si comportano correttamente, io credo che siano solo una minima parte, e allora quale cosa andrebbero in maniera diversa. Però stiamo deviando dal nostro percorso, e allora io ci ritorno. 800 24 00 24, continuate pure a telefonarci. Sentiamo adesso Michele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Michele. Buongiorno. Ci dica, sei in diretta? Sì, grazie. Senta, no, volevo solamente dire questo, che molto probabilmente il tema della sicurezza della casa va affrontato in modo radicale. Voglio dire questo, che i costruttori, e quindi lo Stato, dovrebbe obbligare i costruttori a rilasciare un manuale di manutenzione della casa, quindi un manuale d'uso per l'utente dove ci sono scritte tutte le cose che voi state dicendo fino ad ora, e un manuale per il condominio, per tutte le parti che sono condominiali. Perché tutta la parte impiantistica del gas, dell'acqua e così via, una gran parte è condominiale. Michele, hai ragione. Io credo che invece questo settore sia molto ben disciplinato dal punto di vista legislativo. I condomini si comportano correttamente, ci sono gli amministratori di condominio non che vigilano. Che i condomini non si comportano correttamente. Io dico, c'è bisogno di attestare dentro un manuale di manutenzione che ci siano gli attestati di conformità degli impianti, le modalità di comportamento ed uso degli impianti per l'utenza, le cose che possono fare gli utenti per la loro casa, per mantenerla. Perché se, vede, noi compriamo una macchina che costa 20.000 euro. E abbiamo tutti i manuali, così come per il telefonino. Che costa 200.000 euro. E non abbiamo nessuno ha un manualetto che lo so. Deve fare per la casa. Michele, il tema è che per esempio ogni tanto solleviamo anche quando parliamo del mutuo, ci si indebita per 30 anni per importi altissimi, ma non sappiamo neanche minimamente come funzioni questo mutuo e come viene calcolata la rata, però il telefonino e la macchina, giustamente dice lei, perché sempre questo paragone facciamo, sappiamo benissimo come funzionano, quali sono anche i minimi dettagli degli interni dell'automobile che andiamo a scegliere, facciamo 3.000 confronti fra tanti concessionari e poi ovviamente scegliamo quella che fa per noi. Per la casa invece, come dire, la sensibilità è purtroppo un po' diversa, però insomma speriamo che le cose cambino. L'ultima domanda, Aldo da Caserta, e poi la giro a Franco Bianchi di CNA. Aldo, buongiorno. Rapidissimo, che stiamo chiudendo. Grazie a lei. Una breve domanda. C'è una norma che imponga agli amministratori di condomini di verificare la data di scadenza sul tubo che dal rubinetto, diciamo, della cucina porta all'elettrodomestico, perché parecchi non questa data di scadenza non la guardano per nulla. Perché lei dice che deve essere un impegno dell'amministratore di condominio? Lo so, perché purtroppo i vari proprietari di questo fatto diciamo lo prendono sotto gamba. No, ho capito, però voglio dire, se il tubo è suo, le cose comuni, dovrebbe verificare e avere accesso alle proprietà private per verificare questa data al fine di non ritrovarci tutti con le alucce dietro lo spalle. Aldo, speriamo di no, ci mancherebbe stamattina. Giriamo subito la domanda, 30 secondi di tempo a Franco Bianchi, se ce la facciamo a risolvere il caso di Aldo. Bianchi, CNA. Ma io vado per intuito, non credo che c'è una responsabilità dell'amministratore del condominio. Infatti, se non ho capito male neanch'io di quale tubo parlasse Aldo. La responsabilità dell'utente dell'impianto. Ma più in generale ci vuole, vede, anche un impianto elettrico dice responsabilità dell'utente, cioè in casa mia io ho l'impianto elettrico, una norma, è un problema mio, non è vero. Nell'ambito di un condominio, cioè di una casa formata da più abitazioni, col mio impianto fuori norma io posso creare dei metto problemi, metto a repentaglio la sicurezza di tutti gli altri, certamente. Certo, intanto perché abbiamo delle cose comuni, che sono i tubi dell'acqua, gli scarichi, queste cose. Quindi probabilmente l'ascoltatore è forse un po' più come dire, interessato a un caso magari di un vicino che non ha queste tubature in regola, allora lui dice magari l'amministratore potrebbe sensibilizzare, sollecitare. Esatto. Io però non credo che l'amministratore di condominio, salvo che lui non riesca a dimostrare che c'è questa irregolarità, possa intervenire per fare infatti le verifiche, ecco. Però insomma se ne può parlare in maniera molto franca magari sul pianerottolo del condominio e sollecitare il vicino di casa che non è attento su questi versanti. Rotta di Confartigianato e Bianchi di CNA, vi ringrazio molto per essere stati con noi, devo salutarvi rapidamente perché il tempo a mia disposizione è scaduto, torniamo domani, buona giornata.